Nuovamente in diretta Move to Groove, amici sportivi e non sportivi, la puntata di martedì 11 luglio 2023 parlerà a modo suo di diritti. Lo Youth Basketball, ho deciso di dare questo titolo un po' particolare ma che ha delle attinenze poi con le divagazioni di partenza e l'ispirazione che ha mandato involontariamente Paolo Onofri, collaboratore del Move to Groove, che magari in questo momento in vacanza nella nostra amata Marina Romea e non può seguire attentamente per quanto riguarda la palla 2, che allo stesso modo però riesce ad alzare con grande attenzione. A volte il caso Magazine di ieri, un articolo bellissimo di critica su Black Lives Matter curato dalla scrittrice afroamericana Alice Walker. Lei è un'autrice veramente molto ispirata nel contemporaneo, direi una delle numero uno, ma lasciamo un attimo la letteratura e parliamo di diritti. E parliamo di quello che magari, seppur con concetti assolutamente condivisibili, anzi uniti nella lotta per i diritti con tutte le realtà antirazziste e per i diritti civili, ma qualcosa magari per quanto riguarda poi lo svolgimento di tutto ciò è andato storto. I frutti si sono visti anche nella pallacanestro, diceva Liz Walker, che per quanto riguarda la società uno dei fallimenti è stata la mancanza di spiritualità. Condivido, personalmente aggiungo anche una mancanza fondamentale di coscienza di classe. Ecco, a proposito di mancanza di coscienza di classe, Paolo Onofri ieri manda questa foto al Summer Camp di Indiana Pacers. La panchina degli Indiana Pacers portava 4 atleti così presentati, completamente coperti d'oro, con degli abiti vistosi quanto mai ridicoli, appariscenti, ma sicuramente di un costo molto molto elevato. Ostentazione pura, unicamente spreco e ostentazione, per non parlare poi di orologi e monili. Che li rendeva anche ridicoli e assolutamente antiestetici. Ecco, in questo modo si sono presentati, convinti, non so, di dare chissà quale egoista messaggio di appartenenza in questo modo, cioè quello di imitare lo spreco, il capitale, allineandosi allo stesso modo a quelle che sono invece le principali realtà che bisognerebbe combattere. E quindi anche in questi movimenti la mancanza di spiritualità, la mancanza di coscienza di classe, la mancanza di cultura, di conoscenza della storia purtroppo ha portato a queste esasperazioni. No, veramente 4 atleti sulla panchina degli Indiana Pacers afroamericani completamente coperti d'oro con questi abiti che non si potevano guardare, ma assolutamente costosi, quello che si riusciva a intuire. Questo non erano certamente due straccetti, assolutamente costosi. Questo è uno dei tanti motivi nell'espressione di sviluppo poi del famoso "ma cos'è andato storto?". Ecco, l'analisi di Alice Walker portata ieri sulla lettura del Corriere della Sera sicuramente ha motivo di approfondimento per tutto ciò. Questa uscita, questa realtà che poi vado allo stesso modo a criticare, ne è, chiamiamolo, un risultato sbagliato. Parte con questa divagazione il Mood Groove come palla a due, parte con la musica di Patti Io, anche se il brano è di Curtis Mayfield, porta al titolo Ain't No Love, e continueremo a parlare, tra virgolette, di diritti con lo Youth Basketball tra pochissimo. Ever since our thing began, who am I to say? of Lust. Patio, il brano è di Curtis Mayfield. Ecco, pensate a un grande intellettuale come Karim Abdul-Jabbar, che ha abbracciato spiritualmente altri percorsi, all'anagrafe inizialmente come Lewis Alcindor, poi trasformate, poi con percorsi spirituali. Karim Abdul-Jabbar, un grandissimo intellettuale, oltre che un signore molto presente, molto rispettoso sul parquet, per quanto riguarda il talento, è stato il centro più grande di tutti i tempi, Ecco, immaginatelo nei confronti di una contemporaneità anche nel presentarsi, nel manifestarsi, nell'avere un'idea per i diritti civili, per quello che è l'antirazzismo, per quello che sta succedendo. Ecco, diciamo che non credo sia così favorevole a determinati tipi di espressione per quanto riguarda un aspetto che non è assolutamente, secondo me, secondario, ma potrei citarne altri come Julius Irving, come Artis Gilmore, che certo li abbiamo visti in foto fuori dal campo negli anni 70 e vi assicuro che avevano un atteggiamento certo di protesta, ma assolutamente con contenuti molto diversi dall'ostentazione inutile e capitalista. L'ultima conversazione che ho avuto con John Fultz, lui ovviamente anche lui ha una visione molto particolare, mi disse: guarda che LeBron James, che fa tanto quello per i diritti civili, ha uno yacht con 15 operatori, camerieri, personale a sua disposizione che maltratta regolarmente. E il tema odierno del Mood Groovy, i diritti per quanto riguarda, diciamo, uno youth basketball, che è cambiato nel tempo, perché anche in rapporto col campionato italiano, con la NBA stessa, una volta non potevano essere presenti atleti non statunitensi all'interno della lega professionistica americana. Poi ovviamente le cose sono cambiate, l'allargamento di Mike Stern, il commissioner NBA più illuminato in assoluto. Lui è stato commissioner nel periodo di rivoluzione e normalizzazione cestistica, cioè il punto più alto in assoluto della pallacanestro, e ha portato uno sguardo assolutamente importante anche altrove, con la diffusione prima e poi con l'inglobazione di talenti, perché no, provenienti da tutto il mondo. We are all vessels for one to be. Beh, l'Italia negli anni 70 consentiva la presenza solo di uno straniero, diciamo di un americano, tendenzialmente un americano. Poi è chiaro che dalla Jugoslavia arrivavano grandissimi talenti, ma l'80-85% erano giocatori stelle strisce USA, solo uno straniero. Poi ci fu un piccolo percorso in cui si provò a dare uno sguardo per arrivare ai due americani per squadra, uno dei primi appunto oriundi, perché il passaggio fu quello: se vi è un atleta USA però con origini italiane poteva accompagnare l'altro americano presente, può essere considerato oriundo e può giocare nel campionato. L'oriundo di cui abbiamo già parlato risponde a nome di Mike Sylvester, arrivò a Milano nel 73-74 a fianco di un giocatore americano brano fortissimo è Kim Hughes, un centro di 2-10 mancino, grande capacità e intelligenza cestistica, oltre che un talento sia difensivo che offensivo, veramente molto importante. Ha avuto anche presenza come backup center nella NBA, magari ve ne parlerò con qualche accenno dopo il brano che ho portato, dedicato ai grandi paesà, agli oriundi. Mike Sylvester cambiò il nome da Sylvester con la Y, con la Y come seconda lettera del cognome, con la I normale. Dopodiché i suoi percorsi in Italia hanno visto spazio anche in Sponda Virtus a Bologna. Come atleta ve ne ho già parlato, ha avuto diversi successi in Coppa, Coppa delle Coppe, Coppa Cora, ce ne ha vinte mi pare diverse, dopo guarderemo nel dettaglio quante. Ha un palmarès molto molto forbito. Ha giocato nella Scavolini Pesaro, ha finito la sua carriera a Rimini, passando per Bologna. Insomma, un giocatore che ha giocato tantissimi anni e unicamente in Italia. Un 3, secondo me, più che una guardia. Un giocatore esterno, un giocatore focoso, un giocatore definito cavallo pazzo. Per me sono quei cavalli pazzi dotati anche di grande talento, con questo tiro immarcabile, particolarissimo. Quando da bambini qualcuno tirava con la palla da troppo caricando dietro la testa, stai tirando come Mike Sylvester. Ecco, questa era la definizione per riconoscere questo giocatore dal tiro instoppabile. 1,96, per evitare le stoppate dei lunghi, magari pari ruolo, aveva questo caricamento da dietro la testa molto difficile da stoppare. Giocatore presente per la difesa, giocatore molto focoso, irascibile, un giocatore che, come si dice, io non andrei a rimescolare. Allora, a proposito di non rimescolare, lasciamo stare anche quei bravi ragazzi, i Goodfellas, di cui vi parlerò. Parliamo di oriundi. Allora, nel jazz mettiamo insieme un po' di tradizione italiana con questo capolavoro che non presento neanche, perché lo riconoscerete da subito. Bellissimo. Ma la femmina gli stocchi ha fatta ghiagne, capolavoro, brano del principe De Curtis. Joy De Francesco on organo Hammond B3. Frank Vignola on guitar. Conclude il trio Joe Ascione alla batteria, Joe De Francesco il più riconosciuto, ma anche Frank Vignola è un ottimo chitarrista. Castellino, ti aspettavo. Sì, hai praticamente anticipato, magari ne parliamo nella seconda parte. Un altro oriundo, Carlos Raffaelli, argentino, Phil Melillo, giocatore, una guardia play che poi giocò anche a Treviso, mi pare. Giocatore fortissimo. Beh, per quanto riguarda il Veneto e gli oriundi, Mike Iuzzolino nella Glaxo Verona. E Kim Hughes, aggiungi, aveva un gemello che giocò anche lui in Italia, mi sembra a Brescia. Sai che mi sfugge, mi informerò, mea culpa, mea grandissima culpa in questo caso, di solito per questi aspetti sono abbastanza informato. Intanto ti ringrazio. Sì, Carlos Raffaelli, argentino, già dal cognome chiaramente molto intuibile per quanto riguarda questo Ius Basketball. Facile per motivi sportivi, purtroppo la realtà è ben altra. Comunque vogliamo farne una sorta di dream team, e anche per motivi quanto mai variegati tra di loro, per il passaggio dalla nazionalità di origine a quella italiana. Abbiamo visto Mike Sylvester, che addirittura in maniera molto fantasiosa, mi pare, è riuscito a trovare un bisnonno e ha cambiato la lettera Y secondo nel suo cognome con la I, come di solito noi scriviamo e leggiamo, e ha avuto la possibilità di entrare ufficialmente come italiano. È stato anche nella nazionale italiana, secondo me un ottimo giocatore. E nella NBA cito anche un grandissimo assist man, uno dei più grandi passatori, mi pare che abbia, passatore non intendo quello di Romagna, intendo nel passare la palla e nel trovare il compagno smarcato, Ernest De Gregorio, Ernie De Gregorio. Anche se poi a conti fatti, e ne abbiamo già parlato tantissimo, per cui darò solo qualche citazione, il primo di passaporto italiano, che poi avrà il passaporto italiano, ma il primo con passaporto italiano, seppur acquisito in seguito, a giocare nella NBA, sarà tale Mike D'Antoni. Secondo me il playmaker puro, più forte in assoluto, che abbia calcato i parquet italiani. Talmente forte che ne ho parlato tantissimo. Beh, lui è stato veramente la storia della Olimpia a Milano con questa grinta. Pensate, e hanno giocato insieme Mike D'Antoni e Mike Sylvester, anche questi non da rimescolare assolutamente, anche perché vi rimescolavano loro. Quanto riguarda i diritti, beh, quale voce e quale musica se non che quella di Nina Simone, che ci accompagnerà alla pubblicità con African Mailman. Poi rientreremo e vi spiegherò perché mi è arrivata l'illuminazione di parlare a proposito di oriundi e di Youth Basketball. Tutto ciò dopo la pubblicità, un po' di musica, African Mailman, Nina Simone, e poi nuovamente in diretta Mood Groove, Radio Città Fujiko. A tra poco. Goodfellas ci riaccompagna in diretta quei bravi ragazzi con Joe De Francesco, Joe Ascione, Frank Vignola. Ecco, questo disco lo tengo sempre evidenziato rispetto al contenitore dei CD che sono praticamente divisi in settori. Ecco, questo lo tengo un pochettino fuori perché ho paura che non voglio assolutamente smarrire questo disco che per me è di una bellezza. Questo è Fly Me to the Moon. Mamma mia, bravi, bello, velluto, talento, classe, bravo. Se puoi fai ricerca, Lino, perché io sono un po' imbalzato, come si dice a Bologna, per questo tipo di ricerca. Come sai, difficilmente mi informo in rete. Tutte le notizie, che magari a volte possono essere anche criticate o corrette, arrivano dalla mia memoria sempre più labile, sempre più offuscata. E di Kim Hughes, per quanto riguarda il suo gemello, e mi ha incuriosito tantissimo, ho fatto ricerca, ho trovato un fratello di Kim Hughes, Kerry Hughes, che non mi risulta abbia giocato in Italia, ha fatto solo carriera college NCAA. Però per ricambiare questa tua attenzione ti cito un altro oriundo della viola Reggio Calabria che a me piaceva tantissimo, Mark Campanaro. E quindi il nostro Dream Team sta prendendo forma, ma abbiamo anche un color ed abbiamo anche il motivo per cui ho voluto portare degli oriundi. Ne parlo poco perché faccio fatica, voi non avete idea di che fatica possa fare per parlare di George Bucci, il più grande giocatore col quale io abbia mai condiviso il parquet. Lui arriva in Italia dopo stagioni vincenti nella ABA, giocava nella sua New York, nei Nets, in seguito poi dopo 2 anni nella Lega ABA, quindi quanti aneddoti, visto che lui ha giocato al fianco di Julius Irving, ha vinto anche un anello con la famosa Lega ABA. Poi in Italia come atleta, come straniero, nonostante il cognome chiaramente italico, arriva a giocare nella Mensana Siena, allora sponsorizzata da Calzature Antonini. È una guardia play, è quanto mai completo, può giocare in maniera assolutamente tecnicamente specchiata nei ruoli sia di portatore di palla e allo stesso tempo di guardia tiratrice, e non nascondo, anche da esterno. È stata una scelta importante anche per quanto riguarda il baseball, allo stesso modo di Mike Sylvester. Resta a Siena, dove farà delle stagioni in A2 veramente dominanti. Un giocatore soprannominato Ercolino per questo fisico, nonostante una statura non esagerata, 1,90 George Bucci, con una capacità atletica importante, una potenza fisica esplosiva, una visione di gioco, l'intelligenza cestistica, la furbizia e la originale capacità di prendere e subire dall'avversario avversario infrazioni, anche quando questo avversario mal capitato non ne aveva certo intenzione. Una quantità di tiri liberi George Bucci, e con un'ottima percentuale di realizzazione, una mano chiaramente molto molto precisa, definirei mortifero il tiro di George, e per quanto riguarda l'aspetto di carisma in campo, qualcosa di trascinante e trainante. Di origini abruzzesi, mi pare, il nonno, il paisà, che in questo caso è protagonista per lo Youth Basketball, arriverà a Bologna, non certo giovanissimo, ma ancora in momento importante di carriera. Per avere questo Youth Basketball deve lasciar passare un anno in una categoria molto inferiore, che sarà la promozione. George Bucci a Bologna ha giocato un anno in promozione. Giocava allo Sferisterio con l'LP Gambini, che era dell'allora presidente della Fortitudo Germano Gambini, e per dargli continuità e possibilità di allenamento nel campionato di promozione con l'LP, la presenza di George Bucci. Sono andato ovviamente a vederlo, lui già mio idolo dai tempi di Siena, sono andato a visionare due partite di promozione di George Bucci. Chiaramente non ha mai forzato, non ha mai messo, diciamo, in pericolo la propria carriera. Faceva 30 punti giocando a 10 metri da canestro. E infatti conferma Lino, George Bucci lo affrontai nell'anno tra virgolette sabbatico che fece in promozione all'LP. Sì. Ha giocato col freno a mano tirato, immagino, Lino. Ha giocato 10 metri da canestro, non ha mai messo in pericolo la carriera e soprattutto penso che non abbia mai ostentato, ovviamente, un livello, beh, chiaramente molto superiore. Che ho citato, che potrebbero essere playmaker, guardia alla piccola, mamma mia, Mike D'Antoni, George Bucci e Mike Sylvester, che tre paesà. Sì, l'unica esperienza che posso dire, insomma, per rendersi conto di che cosa stiamo parlando, in allenamento io ho avuto la fortuna di essere nella formazione della Yoga Bologna nell'86-87, quando appunto il secondo anno di George Bucci al fianco di John Douglas ancora. Ecco, in allenamento, non so per quale motivo di agonismo, ebbi la malsana idea di togliergli l'equilibrio in sospensione spingendolo da un fianco. Vi dico, non ha certamente avuto motivo di chissà quale vendetta, è bastata solo una cosa: lo sguardo. Mi ha dato uno sguardo e non sono riuscito neanche a rispondere. Ho tenuto la testa bassa per tutto l'allenamento. Come ho detto, questo grandissimo giocatore. Ci stiamo avviando verso la conclusione di questo Youth Basketball con i grandi oriundi, e poi c'è chi ha acquisito anche per altri motivi la cittadinanza italiana, e sto parlando di un protagonista sempre a Bologna che abbiamo intervistato con il Mood Groove. Dan Gay arriva in Italia dopo essere stato scelto al terzo giro dai Washington Bullets. Arietti si trova divinamente un centro dominante per la 2, arriverà a Bologna, sarà giocatore importante a Bologna, sta talmente bene. Pensate anche le diverse realtà di approccio, c'è chi in Italia trova l'America ed esattamente questo il caso con cui vorrei concludere questo Mood Groove. Un giocatore come Dan Gay ha trovato l'America in Italia. Quindi, quanti talenti, adesso abbiamo parlato di sport nella specificità della pallacanestro, ma pensate quanti talenti da oltre ipotetico confine, da oltre mare, a parte che per motivi umanitari è ovvio che l'accoglienza e quant'altro deve essere conseguenziale, ma pensate anche quanti talenti, sto parlando di sport ma posso parlare di professionalità, di studio, di lavoro e tante altre realtà che appunto non sto a elencare perché sono abbastanza intuibili. Nella pallacanestro oggi ne abbiamo avuto un esempio, no? Quindi qualsiasi ius, qualsiasi diritto è giusto pur di avere una possibilità chiaramente importante per noi e a livello umanitario per tutto il resto del mondo. Avere questa possibilità è da non perdere, soprattutto nel momento di crisi che stiamo vivendo. È una possibilità in più che purtroppo stiamo maltrattando, ma che per me è un fondamentale motivo di progresso. Mi sono soffermato sulla pallacanestro, ma come ben ho detto in precedenza, ve ne sono tanti di motivi per avere questa realtà come importantissimo valore aggiunto. Quanto l'Italia ha portato nel jazz e quanto l'Italia ha portato anche nel basket NBA, poi in seguito con quelle che sono state le intersezioni da David Stern in avanti e viceversa nella contemporaneità, per cui insomma questo, anche se è un caso ben diverso, ma può essere, se vogliamo, nell'imprevedibile martedì di Radio Città Fusico un motivo assolutamente di riflessione e conversazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con la musica che ho selezionato quest'oggi tra i tre paesà capitanati da Joy De Francesco all'organo Hammond B3. A breve avremo Liberi Dentro, dopodiché la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Vi anticipo anche quello che sarà domani per la prima colazione in diretta, che come ogni mercoledì vedrà Silvia Albertazzi in co-conduzione per il Voltiamo Pagina. A tal proposito vi ricordo il 333-180-9494 per arricchire la vostra biblioteca con Radio Città Fusico. Un buon ascolto, un buon martedì, l'appuntamento a colazione a domani dalle ore 7 e dal vostro William Piana un caloroso abbraccio. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani. When I think of how-